Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Con l'omaggio alle venerate tombe dei genitori del Duce, presenziato dal ministro segretario del partito, 10.000 dirigenti di tutta l'attività agricola italiana, dal ministro ai componenti del Consiglio Nazionale della Confederazione dell'Agricoltura, ai nuclei di lavoratori dei campi e di massaie rurali di tutte le 94 province, rappresentanti 7 milioni e mezzo di rurali, hanno iniziato una memorabile adunata a Predappio per tributare un'appassionata manifestazione di gratitudine e di fede al fondatore dell'impero nella fausta ricorrenza del suo genetliaco. Ricordate, parlammo non tanto tempo fa del progetto del sindaco di Predappio di fare proprio a Predappio, città natale del Duce, luogo di pellegrinaggio di nostalgici, il primo e importante museo del fascismo, con un archivio storico, perché finalmente questo periodo della nostra storia esca da questa sorta di aura di circospezione e se ne parli come se parla di qualsiasi periodo storico, con tutte le dovute distanze, ma con un'analisi di tipo scientifico. Allora sembrava impossibile, perché la maggior parte degli avversatori di questo progetto dicevano: ma no, farlo a Predappio significa fare una sorta di mausoleo della nostalgia degli anni terribili. Ma in realtà il sindaco ce l'ha fatta, ha vinto la sua battaglia. Oggi leggiamo sui giornali che c'è stato il via libera del governo, che ha stanziato 2 milioni di euro per il museo del fascismo. Ci sono già le piantine, ci sono già il progetto, ma il sindaco aveva già tutto pronto, lui ci stava impegnando tantissimo su questo progetto qua, e sarà proprio fatto a pochi metri dalla casa del Duce. Sarà un luogo importante, è l'ex casa del fascio dell'ospitalità di Predappio, una architettura fascista, che era una maniera di esprimere comunque la magnificenza dell'impero, e oggi è un segno architettonico di un periodo che comunque è passato, che comunque è trascorso, sul quale comunque gli italiani non hanno ancora fatto serenamente i conti. Questo dimostra del fatto, come abbiamo detto l'altra volta, che per quanto ci si sia sforzati, ancora non esiste in Italia un luogo in cui storicamente e scientificamente si faccia l'analisi dei documenti storici prodotti dal fascismo, durante il fascismo e sul fascismo. Noi di questo parleremo questa mattina, avremo tra poco con noi il sindaco di Predappio, ma vorremmo rivolgere ai nostri ascoltatori questa domanda. Trovate che sia finalmente ora di affrontare questo periodo della storia che ancora viene usato come una sorta di icona minacciosa quando si vuole dare a una persona l'etichetta di retrivo, di criminale, di persona fuori dalla storia, e d'altra parte viene ancora in qualche maniera usato come splendido ricordo di un momento glorioso del nostro paese. Ancora ci sono persone che si portano il capoccione del Duce al collo, si portano i fasci sulle spalle, si mettono la camicia nera, ancora dentro casa hanno i sacrari, gli altarini con tutti i reperti, le panoplie familiari legate al fascismo. Non sarebbe ora che, una volta fatti i conti con la storia, se ne cominciasse a parlare come si parla di qualsiasi periodo storico, con un minor senso di carica emotiva, prendendo atto, ammettendo, entrando in contatto con tutto ciò che il fascismo ha prodotto di sbagliato, di orribile, di abnorme, di disumano, e con tutto quello che comunque ha significato per gli italiani, qual è stato il coinvolgimento reale degli italiani. Tra un po' non esisterà più nessuno che ha vissuto quegli anni. Via via, mentre passa il tempo, i reduci che hanno respirato quell'aria saranno tutti morti. Potranno aver raccontato quello che vogliono ai figli, potranno avere i cassettoni pieni di divise del bisnonno e di panoplie e ricordi in ferro battuto del trisnonno, ma fra un po' non ci sarà più nessuno che avrà vissuto quel periodo. Quindi, finché ancora ci sono i testimoni, perché non usare l'occasione di fare finalmente una seria, scientifica e disincantata analisi storica di quel periodo? 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Grandi archi tricolori davano un aspetto trionfale al paese del Duce, dove egli è stato salutato al suo arrivo dal più schietto amore di popolo. Per l'occasione, la grande colonia solare della GIL, dedicata alla segretaria del fascio femminile locale, Rachele Mussolini, è stata inaugurata alla presenza del fondatore dell'impero col rito dell'alzabandiera e l'appello dell'eroe di Cortellazzo. Sindaco Giorgio Frassinetti, buongiorno. Mi ascolta, mi sente? Sì, sì, io la sento bene. Volevo dire, per lei è una grande giornata quella di oggi. Ah, tutte le volte che c'è un passaggio ulteriore verso quello che voglio fare, cioè questo centro di documentazione sul ventennio, scoppia la confusione mediatica. No? Beh, infatti, si rende conto però che non è un passaggio proprio da poco. Ricordo che Giorgio Frassinetti è il sindaco di Predappio, è sindaco Predappio di PD, quindi non, al di là e al di fuori di ogni tentazione di avere in sé una vena nostalgica. Conosce la sua città, conosce il suo paese, conosce il problema di Predappio, che è quello di essere soltanto un ricettacolo di gite turistiche di nostalgici. Dice: trasformiamo questo in qualcosa che sia utile al paese. Si è dato da fare, e qual è la notizia esattamente nei termini reali rispetto a quello che dicono i giornali? 2 milioni di euro per il museo del fascismo, come stanno le cose in realtà? Cosa è cambiato rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti? Beh, è cambiato che sono diventato proprietario del bene della ex casa del fascio e dell'ospitalità di Predappio, quindi dallo Stato il bene è diventato del comune. E poi c'è stata la visita del sottosegretario Lotti, che ha la delega al 70° della liberazione e delega al CIPE. Quindi è come se fosse venuto Renzi in persona, diciamo la verità, a quel punto. Mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto piacere anche le parole che ha detto quel giorno e anche successivamente. Quindi sto aspettando i tecnici della Presidenza del Consiglio la prossima settimana. Quindi spero davvero che qualcosa si sta muovendo. Comunque eravate già pronti, perché eravate già il progetto pronto, diciamo, era tutto pronto, mancava soltanto l'ok governativo e i soldi poi. Sì, perché la Regione ha mostrato interesse con i fondi strutturali, che adesso abbiamo presentato il bando, e quindi anche lì speriamo in 2 milioni di euro. Però, visto che il progetto è di 5 milioni e soprattutto un progetto del genere non può non avere l'avallo del governo, insomma, quindi sono passaggi significativi. Sono contento. Ecco, per far capire come sarà strutturato, perché la gente non è che deve pensare che sarà un grande altarino gigantesco, no, rispetto a quello che già si vende nelle bancarelle. Cambierà, facciamo le previsioni, sindaco, cambierà un pochino la morfologia di Predappio? Ci saranno meno bancarelle in giro, meno luoghi dove vendono le matite col duce, e sarà frequentato da gente che più seriamente vuole capire le radici storiche, lo svolgersi dialettico degli eventi, quello che insomma c'è in un museo, in un centro di documentazione? Io sono convinto di sì. Cioè, il discorso è proprio questo. Noi spaventa ancora la parola museo, perché vediamo sempre questa forma di celebrazione. In realtà quello che noi vogliamo fare non è né un museo né un centro studi, noi vogliamo un luogo dove la gente entra dentro a riflettere sulla nostra storia e uscire con la consapevolezza che è esistito davvero quel periodo. Il fascismo è nato, si è sviluppato, ha avuto consenso e poi è finito, viva Dio. Ecco, questa narrazione fatta con, spero davvero di avere l'appoggio dei più importanti storici internazionali per fare questa cosa che oggi non esiste, e però è indispensabile. Io credo davvero che siamo arrivati a un punto in cui non possiamo ignorare quel pezzo di storia. Quindi, lei si rende conto, però, Giorgio Frassinetti, che questo le farà meritare, non so, come minimo una piazza Predappio a nome suo, un busto nei giardinetti di Predappio, perché lei ha sdoganato completamente quello che era considerato ancora un luogo imbarazzante per l'opinione generale nel luogo in cui la gente andrà a studiare quello che è stato il fascismo. Comunque, se ha notato, tutte le volte che si parla di questa cosa qui scoppia il caos mediatico, chiunque si permette di dire qualsiasi cosa. Cioè, perché? Perché Mussolini ancora oggi fa parlare. Cioè, l'opera di rimozione che c'è stato dopo la guerra del fascismo, cioè, oggi viene fuori con tutta la sua virulenza. Cioè, non è positiva la negazione, mai. Quindi affrontarlo, e oggi, dopo 70 anni dalla morte di Mussolini, e con un governo giovane, significa davvero che possiamo tentare quello che è riuscito in Germania. A Monaco l'anno scorso hanno aperto un centro studi sul nazismo, ha chiamato così. E non si può certo dire che la Germania abbia diciamo delle aperture nostalgiche. Non si possono nemmeno vendere i soldatini, esatto, con la bandiera nazista. I collezionisti non possono in Germania avere soldatini col nazismo. Un attimo solo, fermiamoci, sindaco Giorgio Frassinetti, è chiaro, 800 24 00 24. Abbiamo già delle telefonate di ascoltatori. Ho posto ai nostri ascoltatori il quesito. Trovate che sia finalmente un passo importante nella grande rimozione che c'è stata rispetto al ventennio fascista, che è sempre stato poi il punto di discrimine e di guerre ideologiche? Non è possibile collocarlo in una corretta analisi storica. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io condivido molto il punto di vista suo giornalistico sul non cancellare quello che è stata una nostra parte di storia e non volerla dimenticare. Ho delle riserve sul luogo, perché è un luogo che, al di là del luogo di nascita di Mussolini, non ha altre valenze storiche. Sarebbe forse, se si vuole scegliere un luogo, più opportuno o una sede istituzionale quale la capitale, o comunque un luogo dove sono avvenute dei veri eventi storici relativi alla storia fascista, oppure luoghi dove il fascismo ha commesso dei crimini, per esempio il campo di Fossoli. Ricordiamoci che il fascismo comunque ha commesso dei crimini contro l'umanità. Assolutamente, questo non lo nega nessuno, però le posso dire, poi me lo confermeranno altri ospiti, in realtà qualcuno ci ha provato nel corso degli anni, nessuno mai ha voluto farlo. In fondo a Predappio è l'unico posto in cui c'è stato desiderio. Chiaramente non è che lo fa soltanto per un portato ideologico, porterà al paese di Predappio una nuova linfa, perché era il paese, quasi il parco a tema dei nostalgici del fascismo. Oggi sarà il luogo in cui c'è una maggior testimonianza storica, anche perché ci sono le ceneri del fondatore. Se riusciranno a superare questa difficile equazione di non fare un sacrario celebrativo, ma di fare un luogo che abbia un valore storico proprio laddove nacque la storia, faranno un grande passo avanti. Cesare, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Ravenna, quindi sono romagnolo e quindi conosco, credo, bene anche la situazione di Predappio. Ce la descriva dal suo punto di vista, così capiamo meglio. No, io io sono contrario, anche se, attenzione, capisco perfettamente la buona fede e anche le buone intenzioni del sindaco, attenzione. Sono contrario per un motivo, innanzitutto perché in Italia noi non abbiamo una storia condivisa, ma non è un problema italiano. In America tuttora, nord e sud, insomma, nordisti e sudisti la vedono diversamente, così come la vedono diversamente soprattutto in Spagna, dove non si parla, anzi è stata rimossa la guerra civile spagnola. Quindi è un problema anche mondiale, cioè quando un paese si spacca, si divide, si spara, sono le tragedie che sono capitate. La guerra civile spagnola fu l'Europa che si spaccò, l'Europa era rappresentata. Sì, ma tuttora in Spagna tuttora è un problema che hanno rimosso, si cerca di non affrontarlo perché è un paese spaccato su questo. Allora io dico semplicemente, in Germania è vero che c'è stata hanno fatto un museo del nazismo per studiare il nazismo a Monaco di Baviera, ma in Germania con tante cose negative che possono avere, hanno fatto un'opera a scuola anche di studio. Da noi il fascismo non arriva neanche, cioè c'è ufficialmente, ma nessuno arriva a studiarlo. Quindi il problema è essenzialmente la non conoscenza. Io credo semplicemente che bisognerebbe. Sì, poi sempre è stato studiato secondo le epoche, o è stato rimosso, o è stato trattato con una trattatistica molto parziale, evitando poi di dare una visione reale. Si negava che in Italia ci fosse stata una guerra civile. Poi ultimamente non gliene importa più niente a nessuno di niente, quindi diventa. Questa è la tragedia. questo è il problema. Sì, sì. Un mausoleo, un museo, che cosa potrebbe. Però portare? Mausoleo è una parola negativa. Io penso che un luogo in cui finalmente confluiranno le testimonianze storiche e gli studiosi, perché in tutto il mondo ci sono studiosi di fascismo. Fermo un attimo, Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento di Roma. Vogliamo far capire la differenza, Marco Pizzo, tra un mausoleo, un sacrario, un luogo per nostalgici e un luogo in cui scientificamente si analizza la storia? Allora, la differenza fondamentale è che il museo non è un luogo in cui si esalta questo o quello, ma un luogo in cui si danno degli strumenti per studiare qualche cosa. Io ho dato un'occhiata al progetto generale di Predappio e devo dire che mi piace moltissimo, perché non è innanzitutto incentrato su Benito Mussolini, ma incentrato sul fascismo. Creare un polo dove finalmente si studi in Italia, il fascismo non manca, cioè ci stanno tantissimi luoghi universitari dove il fascismo si studia e si è studiato, ma manca la comunicazione, e il museo è fondamentalmente questo, un luogo per comunicare i risultati di queste ricerche. All'estero la bibliografia sul fascismo è forse superiore anche rispetto a quella italiana, ma perché tutto questo non si deve divulgare nel bene e nel male? Cioè, studiare un fenomeno significa studiarlo per davvero, e Predappio, mi permetto di dire, è il luogo simbolo di tutto quanto questo, anche perché l'architettura di Forlì e di Predappio è un'architettura fortemente razionalista. Quindi sarebbe immerso, adesso però è aperto, perché già c'è gente che scrive da Pontinia, da Latinia, da Guidonia, dicendo anche noi abbiamo l'architettura fascista e forse va a farlo da noi. E infatti a Guidonia, Pontinia eccetera hanno una legge speciale che si chiama la legge delle città di fondazioni, che ha permesso lo studio di queste città. Ora invece esistono queste città, esiste Predappio, è il momento di mettere in raccordo tutte quante queste esperienze, se no sono divise. Allora, mentre Marco Pizzo intanto riflette sulla prossima domanda che farò dopo la pausa, è quali sono le fonti che potrebbero confluire a Predappio, io lancio una sfida agli ascoltatori. Cosa avete voi in casa? Cosa avete nascosto? Cosa avete, diciamo, ostentato che potrebbe confluire in questo museo? Quale ricordo, quale oggetto, quale lettera, quale divisa, quale manganello nascosto avete dentro casa che potreste in qualche maniera mandare per essere esposto al Museo del Fascismo? Pensateci, fra un istante, poi mi rispondete. 800 24 0024. Melog. Cronache meridiane. Ho chiesto ai nostri ascoltatori se mai avessero dei contributi personali, familiari, domestici del passato regime fascista e di tutti i suoi orpelli o suoi documenti da offrire al Museo del Fascismo, che si farà comunque a Predappio, a pochi metri dalla Casa del Duce. Il sindaco Giorgio Frassinetti ci ha appena confermato che c'è l'ok governativo, arrivano i primi soldi, è arrivato il passaggio di proprietà di quella che era appunto la casa, ex casa del fascio, e quindi diventerà il luogo in cui si metterà insieme tutto il materiale sul fascismo. Abbiamo già Maria, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa avrebbe da dare al Museo del Fascismo? Allora, se lo smuro, ho tutte le mie case col numero civico con vicino il fascio. E quante case possiede lei? È un borgo in campagna di un'azienda agricola, e tutte sono tre case, tre magazzini del grano, non è case, magazzini di grano, casa diciamo d'abitazione, così, e tutti hanno vicino al numero civico rimesso nuovo, non abbiamo mai tolto quelle con in ceramica bianca col bordino blu, il numero e il fascio vicino. Allora, facciamo un esempio a tempo reale. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma. Questo è un reperto che potrebbe essere studiato e ragionato all'interno di un museo? In che maniera potrebbe la nostra ascoltatrice in qualche maniera metterlo a disposizione chi volesse studiarlo o inserirlo in un più ampio discorso e analisi storica? La cosa più semplice è fare una semplice fotografia di questo numero, geolocalizzarla, cioè dire esattamente dov'è, e mandare le immagini digitali a questo centro di documentazione che deve crescere a Predappio. La cosa più semplice è proprio questa: raccogliere in maniera digitale, fotografica, tutte le testimonianze che uno ha. Così non se ne priva, ma la comunità accresce la propria consapevolezza. Hanno fatto una cosa del genere con un progetto europeo che si chiama Europeana 14-18 per la Prima Guerra Mondiale. Sono state raccolte circa 8 milioni di immagini di cimeli che stavano presso le famiglie dei singoli in tutta Europa. La stessa cosa si potrebbe fare sul fascismo adesso in Italia a costo quasi zero. Giorgio Frassinetti, sindaco PD di Predappio. Ha sentito lo storico Marco Pizzo, la nostra ascoltatrice, le hanno dato un'idea. Potrebbe esserci l'idea di cominciare a fare un archivio digitale intanto, con foto geolocalizzate di quelli che sono i reperti, poi vedere se questo può essere l'inizio di una lettura che ci tolga di dosso la muffa della nostalgia rispetto al tema? Ma Io ringrazio, davvero, credo proprio di sì, però dobbiamo stare attenti, perché ancora oggi in Italia la parola museo è scivolosa, sembra quasi che noi facciamo qualcosa di celebrativo. Però così si chiamano in tutto il mondo. Si chiamano così. Colpa nostra, però... siamo noi che dobbiamo ricollocare in maniera lessicale questo termine. Sì. La più grande fatica è proprio questa, quello di spiegare a tutti quanti che a presente non siamo impazziti, ma che vogliamo davvero dare un contributo vero, serio, alla ricostruzione storica del nostro paese. Ben vengano la catalogazione, le fotografie, tutto quello che in qualche modo può consentirci di tracciare una narrazione a perlomeno decorosa di quel periodo. Aspetti un attimo, sindaco. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Cosa ha lei per casa da dare al sindaco? Da dare, da fotografare, geolocalizzare e mandare intanto sì, digitalmente? Ho una cosa stranissima che ho ritrovato... diciamo una quindicina d'anni fa, che era andata perduta, nel senso che era una casetta, la casetta di Predappio del Duce, fatta in argento, col tetto apribile, come se fosse una casetta. Come la casa di Barbie, come la casa, esatto, di Barbie, sì. Che mio nonno aveva fatto per regalarla al Duce e in quell'occasione poterlo conoscere. Poterlo. Quindi è un oggetto, un manufatto storico da omaggiare al, per omaggiare, esatto, il Duce. Che fece, che anno era più o meno, si ricorda? E secondo può collocarlo? Secondo me era fine anni 20, soltanto che... Ma cos'era, un orafo suo nonno che lavorava all'argento? Sì, sì, certo, era un argentiere. E siccome aveva già fatto la stessa cosa col re, aveva fatto un'anfora enorme e era andato a portarla a Roma e il re l'aveva ricevuto, gli aveva fatto tutti... E come mai non riuscì a consegnare al Duce l'ambita casetta col tetto apribile? Non è riuscito a consegnarla, beh, lui l'ha fatta, poi la faceva vedere a tutti... perché era un entusiasta e un giorno l'ha fatta vedere, l'ha tirata fuori, fargli vedere una persona che non è che conoscesse molto bene, poi lui si è allontanato un attimo da dove era, non ha trovato più questa persona e neanche la casetta. 20 anni fa, risistemando l'azienda, spostando una cassaforte, io ho trovato questa cosa tutta annerita ormai dietro il frontale di questa vecchia cassaforte, l'ho aperta e mia mamma fa: ah, la casa del Duce, ecco dove era. Si vede che lui l'aveva nascosta per poi poterla rubare in un secondo. Fermola, non resti lì, ascoltatore. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, quindi un personaggio importante, vive al Vittoriano e gestisce il Museo Centrale del Risorgimento. Ti stai leccando i baffi pensando a come potrebbe essere raccontata la storia di questa sorta di ex voto che veniva fatto per il Duce? Ma sicuramente, ma anche perché bastano queste due telefonate per capire come la cosa più importante sia proprio raccontare questa storia diffusa dagli italiani, cioè raccogliere queste testimonianze che fra un po' andranno irrimediabilmente perse. Ma c'è dei nessi storici all'ex voto laico da dare, dal dare al capo del fascismo o qualcosa del genere? Sì, io nel mio museo ho una cassetta che venne donata a Mussolini negli anni 30 con il Vittoriano, e è al museo perché è un mio cimelio storico, perché erano tantissimi i doni che venivano fatti, come prima ne erano fatti al Re d'Italia o anche successivamente, ma è proprio la storia di questa sorta di religione popolare che si andò a creare negli anni 30, e raccontare questo significa poi raccontare anche la vita di tantissimi italiani, e questa è la cosa importante da fare. Pinuccia, buongiorno. Pinuccia. Sì, buongiorno. Cosa ha lei? Io ho un ovale in bronzo, molto bello, con Mussolini. Ma è d'epoca oppure quelli che vendono oggi dovunque? No, è d'epoca ed è antichissimo. Era ancora fatto dai nostri bisnonni che facevano gli stagnini, si ricorda gli stagnini, sì, di una volta? Sì. È molto molto bello e ha scritto intorno all'ovale. Ora le leggo cosa c'è scritto. Quanto è grande? Che dimensioni ha? Dunque, 27 per 25. Ah, sta misurando con il metro da sarta. Dunque, sta scritto, la parola d'ordine è questa: andare, incontrare il popolo. Che è strano. Marco Pizzo, è strano come motto fascista, andare e incontrare il popolo. Recupera proprio le radici socialiste del fascismo, ma anche lì ci sono tutte le scritte che venivano scritte dal fascismo nelle case, nelle facciate, eccetera. Questo potrebbe essere il momento di fare un censimento di queste, che sono delle epigrafi ormai del Novecento italiano che si stanno perdendo. Però c'è un problema, Marco Pizzo, lo pongo a te e poi lo pongo anche al sindaco Giorgio Frassinetti. C'è una parte d'Italia che si è sempre sentita, diciamo, il testimone prediletto per mantenere il ricordo di Mussolini. Casa mia, che è una famiglia di combattenti fascisti, c'era tutta l'opera, non so, di Pisanò, storia della guerra civile in Italia, c'erano i ricordi. Come si fa a evitare che poi il racconto della storia sia soltanto una storia di parte? Non ci sono personaggi designati a raccontare il fascismo se non gli studiosi che scientificamente lo analizzano, o dico qualcosa di errato? Allora, io scinderei questo lavoro in due parti. Uno è la raccolta di tutte queste enormi testimonianze private, singole, pubbliche, che potrebbero confluire veramente un archivio digitale che ha un luogo designato per poterlo consultare. Allo stesso tempo è fuori dallo spazio, perché se è digitale... Esatto, è fuori dallo spazio. Ognuno può arricchirlo con le proprie interpretazioni, quello che pensa, quello che non pensa. Poi ci sono una storiografia, e oramai la storiografia sul fascismo la definirei anche abbastanza asettica. Il mondo degli studi è andato molto avanti, si vede questo con una prospettiva che oramai è una prospettiva storiografica. Le nuove generazioni non hanno vissuto il fascismo, quindi lo vedono come un oggetto anatomico. Ed è quindi adesso il momento giusto, prima che tutta questa memoria, che è una memoria biologica delle persone, vada persa. Aspetta un attimo, Pizzo, prima di chiudere, Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei. Pronto? Sì, la sto ascoltando. No, mi sono sentito di intervenire perché, oltre che essere uno storico che si è trattato di questi temi, sono il responsabile del Centro Studi sulla Repubblica Sociale e in questa veste ho raccolto materiale. Nello stesso tempo abbiamo inaugurato... sette mesi fa ormai a Salò. E dove sta il Museo della Repubblica Sociale? A Salò, proprio a Salò. È un'altra data, è un altro luogo storico e anche nella memoria degli italiani legato al fascismo. Ovviamente. Ecco, ma voi avete una lettura, diciamo, di parte, tanto per essere franchi. No, oppure... Scusi, io sono un docente universitario. Domandare è lecito. Certo, è lecito. Io sia mio padre che mio nonno sono stati repubblichini, quindi figurati se ho problemi. Se è il museo dei nostalgici della Repubblica di Salò o è il museo di raccolta, solo per sapere, è una domanda lecita. No, scusi, ci sono due cose. C'è il centro studi che è una biblioteca e un archivio, quindi raccoglie documenti solo sulla Repubblica Sociale, quindi un piccolo spazio dell'intera storia del fascismo. Ma è una biblioteca, archivio. Ma voi dovete in qualche maniera mettervi in contatto, però dovete intercomunicare. Ecco, questo che dicevo io, anche perché i problemi che affronterà, magari su scala maggiore, il comune e chi sarà responsabile. Li avete già passati. Li abbiamo già passati noi e devo dire che, se posso dire, li abbiamo anche un po' superati, perché avevamo anche noi questo muro di pregiudizi, per cui per i... Ma comunque, guardi, in questo momento voglio fare una trasmissione tecnica. Marco Pizzo, come collaborano due aree, una in costruzione e una già strutturata, per dare un supporto tecnico scientifico efficace in questo caso? Allora, io conosco l'attività del Museo di Salò e devo dire che rappresenta un'eccellenza sugli studi della Repubblica. Le mie domande non erano maliziose, solo per capire. No, proprio per questo, proprio siccome è quello il cammino da compiere, cioè... Predappio si occuperà del fascismo, la Repubblica di Salò si occupa della Repubblica di Salò, debbono creare in qualche maniera un collegamento, e questo oggi è tutto possibile, per raccontare insieme fino a un periodo e dopo un altro periodo, ma permettendo una sinergia tra museo, centro studi, materiali documentari. Oggi il mondo è aperto a qualsiasi forma di collaborazione, perché con la rete e col digitale si può fare tutto. 800 24 00 24, ci fermiamo un istante, continuate a chiamare. Chi di voi avesse a casa materiali che comunque pensa che possano essere utili a comprendere, a capire, a studiare il ventennio, sappia che questa mattina può segnalarceli e diventeranno probabilmente parte del museo del fascismo che si farà a Predappio. A tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. Stiamo cercando per quanto possibile capire quali potrebbero essere eventuali contributi per il museo del fascismo, anche se la parola non piace al sindaco Giorgio Frassinetti. Ne troveremo forse un'alternativa che inizierà ad essere costruito a Predappio. Ha sentito il sindaco Frassinetti che però in realtà esiste già una realtà anche strutturata in Italia. Farete in modo che confluisca comunque o sia collegata con la vostra area, che poi chiamerete come volete, se non volete chiamarla museo? No, ma il discorso è questo, che esistono più di 60 realtà in Italia, museali, centro studi, che si occupano degli ultimi anni, ma non c'è niente, non esiste niente che si occupa di analizzare l'intero periodo. L'origine e diciamo... Quindi ci sono musei della resistenza, ci sono, cioè, però tutti gli ultimi anni, cioè quelle della liberazione, della guerra civile, del passaggio tra il regime fascista e la Repubblica, ma non c'è nulla se non all'interno delle università, dove ci sono grandissimi studiosi in Italia e ci sono anche dei curatori di musei come Marco Pizzo, eccezionali, che veramente possono dare un contributo molto molto importante. Poi è chiaro che uno si deve aprire, non è che nega la discussione, il dialogo con altre realtà o anche con chi la pensa in maniera diversa, però il tratto che glielo vogliamo dare penso sia chiaro, cioè il rigore dell'analisi storica che deve uscire dall'università e diventare patrimonio del paese. Già in queste ore che sono passate dall'annuncio sui giornali c'è state, diciamo, dichiarazioni di interesse, non soltanto quelli che danno la botta sulle spalle, cioè finalmente avremo il Museo del Duce. Qualcuno è seriamente e scientificamente interessato a costruire quest'area, sindaco? Sì, sono arrivate qualche mail stamattina di persone che ho già in contatto, e sì, proprio storici importanti che mi dicono vai avanti, anche perché cosa vuole stamattina? In alcune radio c'era chi mi ridicolizzava, no? Cioè, a Predappio, cioè, proprio questa volontà di non cercare di fare un passo in avanti, adesso un'analisi storica. Sì, deve uscire un pochino da questa sorta di parco giochi dei nostalgici, perché sennò pensiamo tutti a Predappio e pensiamo se lei fa togliere qualche bancarella di giochetti. Non ci sono bancarelle, ci sono tre negozi di souvenir dal 1995, purtroppo è stata delegata a loro la narrazione di Predappio e io non ci posso fare niente. Sì, ma c'è anche dei ridicoli Padre Pio, dei ridicoli Papa Benedetto, c'è di tutto intorno a Roma, quindi i souvenir non possono essere censurati, però questo aiuterà, diciamo, a integrare, anche se va nei grandi musei, dentro trova i portachiavi con la Pietà di Michelangelo, non è questo il problema. Sono convinto che proprio la grande arma è la cultura. Cioè, più noi aumentiamo l'interesse storico e culturale verso quel periodo e meno saranno gli appassionati di gadget o di chi viene qui a celebrare. È la più grande arma di distruzione del pregiudizio di massa, la cultura. Per questo è difficile a maneggiare. Difficilissima. Ma io, guardi, visto che è stato sempre così gentile con me, io la invito a Predappio insieme a Marco Pizzo, così insomma, vi rendete conto che cos'è Predappio. Guardi, io sarò a Forlimpopoli fra una quindicina di giorni, allungo e passo a vedere. Mangiare un piatto di cappelletti, sì. Bevendo con il vino del Duce, quello lì, come si chiama? Dovete più Predappio. Fermo un attimo, Giorgio da Forlì, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi chiamo Giorgio, sì, sono di Forlì. Sono rimasto incuriosito per la trasmissione di questa mattina, intanto perché io sono nativo di Predappio, dalla mia tomba di famiglia nel cimitero di San Cassiano, un centinaio di metri dalla tomba di Mussolini, e anche perché mia nonna era la storica levatrice di Predappio, si chiamava Ada Maffi, e dal 26 circa fino al 61 è stata, prima ancora che si andava a partorire nel ma non ha fatto nascere nessuno della Sacra Famiglia? Della Sacra Famiglia no, penso di no, però praticamente generazioni di predappiesi sono nati... di quelli che nascevano col mascellone e la testa pelata, quelli che poi sparpagliava il Duce in giro. Probabilmente ce n'erano, fra l'altro mia nonna girava in quel periodo con l'asino, con la rivoltella, perché girava di notte, perché andava nelle famiglie per verificare, aspettando che nascessero i bambini, eccetera. Quindi già questa cosa mi ha incuriosito questa mattina. No, io il mio contributo che volevo dire era questo. Io sono appassionato di musica dagli anni 20, 30 e 40. Io ho una collezione, il catalogo in maniera quasi ossessiva, spartiti musicali, musiche di quel periodo, e quindi chiaramente... Vabbè, le porti al sindaco, ci va a piedi lei praticamente a dove sta? Ah, ci vado a piedi, non ho problemi. Allora, sentiamo Mafalda, però Mafalda fa una domanda che è giusto prendere in considerazione. Mafalda, buongiorno. Buongiorno. volevo dire, non facciamone un eroe di Mussolini. Ma chi l'ha detto fare un eroe? I ragazzi devono solamente studiare il caso. Ma anche i grandi, non solo i ragazzi. Perché noi conosciamo la storia. Beh, lei si chiama Mafalda, le hanno dato il nome di una delle principesse del re d'Italia. Quindi hanno bisogno di eroi positivi. Mussolini all'inizio poteva essere, anche mia mamma mi ha ricordato cose positive all'inizio. Beh, se l'hanno chiamata Mafalda c'è un senso, no? Non erano quei nomi che si dava. Non era il nome che si dava a casa. Da fare un museo, da visitare. I giovani hanno bisogno di eroi positivi, basta, grazie mille, buongiorno. Sì, vabbè. Che vuol dire eroi positivi? Non è mai positivo uno che deve morire per forza per essere eroe. Ma qua mi sembra che se facciamo proprio, è l'antitesi di dare un senso eroico. Quando qualcosa diventa oggetto di studio, è sul tavolo anatomico dello studioso, e cessa il portato fantastico emotivo dell'eroe. L'eroe serve per alimentare le masse. Beato il paese che non ha bisogno di eroi, è il caso di ripeterlo. Giuseppe. Ciao. Quindi adesso ti faccio i complimenti per la trasmissione. Sicuramente. No, ma cosa... esprimi quello che volevi dire, al di là dei complimenti. Ma ovviamente io ho delle perplessità, nel senso che io esprimile, perché sennò sembra che facciamo una trasmissione soltanto con le persone. No, nel senso che faccio una domanda così provocatoria, no? Al di là che secondo me è un periodo molto molto interessante da studiare per capire anche chi siamo oggi. E purtroppo è talmente controverso, cioè mi rendo conto che io ho 40 anni, anche con i miei coetanei mi rendo conto che non ci sono margini per capire, cioè per essere abbastanza neutri e giudicare. Ma posso dirti una cosa, Giuseppe? Chi studia veramente il fascismo non è che lo studiano gli italiani che hanno il nonno fascista o il nonno partigiano, lo studiano fior di studiosi in tutte le parti del mondo, che assolutamente lo studiano come io potrei studiare il debello gallico, capito? Con lo stesso trasporto emotivo, solo con interesse storico e scientifico. Di questi dobbiamo noi tenere conto. Faccio solo una domanda, scusami il disturbo. Prego. Ma loro sono per esempio intenzionati, appunto quello che vogliono fare questo museo, di mettersi in contatto per esempio con il Museo della Memoria che è stato fatto a Milano lo scorso anno? Ti risponde subito il sindaco Giorgio Frassinetti. Giorgio Frassinetti, nel Museo della Memoria c'è una parte sicuramente interessante di quello che comunque ha prodotto il fascismo. Per evitare, semmai fosse necessario, l'idea di fare un luogo di celebrazione del fascismo, perché ci sono anche questo tipo di telefonate. Guardi, io ho conosciuto l'anno scorso Luca Veri, che quello che farà il Museo del Memoriale della Shoah di Roma, e ha detto: io sono venuto a Predappio con un pregiudizio, e poi siamo stati tutta una mattina e ha capito, cioè, quindi noi siamo aperti, non abbiamo... Ho ricevuto lettere da parte della comunità ebraica di Milano per dire: noi ci siamo, l'AMPI ci sta seguendo da vicino da 3 anni, le istituzioni, parlo della regione Emilia Romagna con l'assessore alla cultura, ci sta vicino veramente da tanto. Lei è sindaco di sinistra, oggi si dice PD che non vuol dire niente, ma le sue radici sono radici fortemente di sinistra, penso, no? La mia famiglia è di sinistra, sì, io sono di sinistra. Lei sì, penso, non lo so, quello che fa finta, non lo so. No, chi è nella camicia nera sotto quella rossa, non ho idea, però sono fatti suoi. Però a questo momento mi sembra l'operazione sia abbastanza trasparente, non mi sembra che si stia tramando per fare un nuovo sacrario. Sentiamo Riccardo. Riccardo. Eccomi. Allora, io ho queste tre cose che potrei dare al museo. La prima è una ricevuta in cui si dice che una signora ha consegnato la mia fede alla patria. Per cui quando veniva data la fede d'oro in cambio della fede d'acciaio. Mio nonno ancora la portava, me la ricordo, non volle mai cambiarla, cioè questa fede che era bruttissima. La seconda è un'iscrizione al Partito Nazionale Fascista del 35, in cui c'è anche il numero di tessera e e la firma, ecco, del segretario. E il terzo, il terzo, non ci lasci sospeso. Il terzo è una scatolina in legno che contiene delle carte da gioco mai utilizzate, con una dicitura, una citazione di Mussolini che dice: c'è ancora in giro qualche inguaribile deficiente che osi affermare che la luce viene dall'Oriente? È una citazione tratta dal Popolo d'Italia del 38 a firma Mussolini. E le mettevano dietro le carte da gioco, e questo è interessante. Beh, ci sentiamo, grazie sindaco Frassinetti e grazie a quelli che cominceranno a contribuire con i loro oggetti familiari al Museo del Fascismo. A domani.